cinque giorni di sciopero della fame, diciamo che la stanchezza si comincia a farsi un po' sentire. Comunque le condizioni sono ancora accettabili e spero di essere ancora abbastanza lucido per condurre l'intervista. I motivi del mio sciopero sono ormai stati divulgati anche su... Ripetiamoli brevemente, lei ha un'impresa di... Io ho un'impresa di trasporto pubblico locale, quindi usiamo dei pullman per movimentare le persone come tutte le aziende di trasporto pubblico, soltanto che è gestito da un privato. Abbiamo una concessione che viene rinnovata di anno in anno con l'ente pubblico, in questo caso la Regione Veneto, e ci vengono riconosciuti dei corrispettivi per il trasporto che noi effettuiamo. Quanti dipendenti ha nella sua impresa? Siamo in cinque, compreso me, per cui diciamo più una famiglia che un'impresa. Abbiamo un rapporto personale molto stretto, devo anche ringraziarli perché in questi giorni, nonostante non avessero percepito la paga, hanno continuato a svolgere il loro lavoro correttamente. E i soldi di cui lei lamenta il fatto di non essere pagato, a quanto più o meno ammontano e a che periodo si riferisco? Allora, diciamo che ammontano a 5 mensilità, cioè gennaio, ma non solo la mia azienda, tutte le aziende di trasporto pubblico, comprese quelle pubbliche, non ricevono i corrispettivi dalla regione per una questione tecnica, che è l'approvazione del bilancio regionale, che solitamente avviene tra febbraio e marzo. Poi c'è tutto un iter burocratico che porta le somme dalle tesorerie regionali e quelle provinciali e presentazione dei documenti e quindi liquidazione. Questa situazione si ripete ormai da 9 anni, perché da quando si è passato a un regime di concessione diretta alla regione, che quindi aveva 9 anni di contratto e un rinnovo tacito, e si continuava, mentre ora c'è questo rinnovo annuale in visione delle gare di assegnazione per la gara di appalto, che sono per uniformarsi alla normativa europea. Queste sono da anni che devono essere indette e non vengono ancora promulgati i canoni del bando, e ogni anno ci ritroviamo in questa situazione. Quando noi privati dobbiamo sopperire a queste mensilità, a seconda delle dimensioni delle capacità, ci vediamo magari costretti ad accedere dei crediti con le banche, quindi delle passività di interessi, che però queste non ci vengono riconosciute, mentre magari le aziende pubbliche possono comunque sopravvivere attingendo alla cassa pubblica. Io più che sollevare una polemica, non vorrei che questa cosa venisse strumentalizzata come caso umano. Qui c'è un problema, è un problema che va affrontato seriamente. Io quello che cerco con questo gesto è di aprire un tavolo di trattativa con la regione. Cioè, è un problema che c'è da anni, che c'è per tutti, probabilmente anche per la regione stessa, perché chiaramente complica la vita anche a loro la gestione così difficile delle transazioni e quant'altro. Quindi noi privati siamo un'apertura per sedersi a un tavolo e discutere la problematica cercando delle soluzioni, perché ripeto, 9 anni sono tanti. Io l'anno scorso, comunque, per questo stipendio di dipendenti, non mi sono pagato il riscaldamento di casa, me l'hanno tagliato, mi sono lavato tutto l'inverno con l'acqua a forali. Quindi è una situazione difficile. È chiaro che magari ci sono aziende che sono più strutturate della mia, hanno le spalle più larghe e possono sopportare meglio la crisi, però ho la difficoltà dell'ente pubblico a liquidare, però abbiamo anche bisogno di garanzie per il futuro. Io ripeto, non è una polemica, vuole essere un'apertura per cercare insieme le soluzioni. Va bene, intanto sentiamo l'immediata risposta. Noi abbiamo il collegato Leonardo Muraro, il presidente della provincia di Treviso. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Allora, come abbiamo sentito l'esposizione di Matteo Portaluppi, che dice: io non voglio sollevare un caso personale, vorrei anzi dare una mano all'apertura di un tavolo che consenta anche agli enti locali che devono assolvere a queste procedure, sono molto pesanti anche dal loro punto di vista, magari hanno anche loro bei problemini per rispetto del patto di stabilità, quindi io lo faccio con questo intento. In realtà poi nella vicenda concreta come stanno le cose? Ma io prima di tutto faccio gli auguri e mi auguro che l'imprenditore riesca a trovare una sua serenità e sospenda questo sciopero della fame che sta facendo, perché non credo che sia questo il sistema per risolvere questi problemi. Noi siamo stati coinvolti in questa, fra virgolette, polemica, forse anche enfatizzata dai media che hanno scritto di più di tutto. La storia è questa: noi abbiamo questo servizio su mandato della Regione del Veneto. Per il 2009 abbiamo liquidato tutto quanto c'era da liquidare, dopo che nella presentazione delle fatture la Regione del Veneto ci aveva inviato una raccomandazione di controllare i DURC, in quanto sembrava non fossero tutta la documentazione in regola. Lei sa che l'ente pubblico deve controllare che l'imprenditore svolga e abbia in regola tutta la documentazione relativa al personale e alle risorse dell'azienda stessa. Per cui il 2009 tutto a posto. Nel 2010 noi avevamo bisogno di una delibera, come diceva l'imprenditore, della Regione del Veneto, delibera che è stata fatta a marzo, il 22 marzo di quest'anno, il martedì prima delle elezioni regionali. Dopo questa delibera abbiamo subito attivato, per le quattro mensilità, per cui gennaio, febbraio, marzo e aprile, abbiamo subito attivato la richiesta di documentazione a parte dell'imprenditore relativamente appunto alla liquidazione di quanto aspettato. Nell'aver presentato la documentazione c'erano ancora delle incongruenze e non corrispondeva a quella che è la normativa di legge della liquidazione, ma l'invito è, questo non è assolutamente da fare polemica, perché in questi casi, come sempre, noi invitiamo l'imprenditore in maniera proprio amichevole a fornire, e diamo il tempo necessario per fornire tutta la documentazione di legge per poter liquidare quanto dovuto ai nostri imprenditori. In questo caso devo dire che io, come amministratore, non ho mai avuto di problemi di liquidità con le imprese che lavorano per l'ente provincia. Ci sono i patti di stabilità, ma come sempre noi cerchiamo di concordare assieme alle aziende stesse la posizione per la liquidazione di quanto dovuto nei tempi che vengono concordati, ma che mediamente sono i tempi che purtroppo la burocrazia di questo paese ci impone. E cioè più o meno quanti i tempi? Ma varia, guardi, se noi guardiamo un'opera pubblica c'è l'avanzamento lavoro in base nel momento in cui vengono assegnati i lavori per fare una strada. Si dà un corrispettivo che mediamente è del 10-20% secondo come viene regolato. Poi man mano che va avanti l'opera ci sono dei corrispettivi che sono, si arriva dal 20%, si arriva al 40%, 60%, 80%, e poi il 100% viene liquidato nel momento in cui viene eseguito il collaudo dell'opera pubblica da parte di professionisti che ovviamente collaudano, certificano, verificano che tutto sia a norma, ci appongono la loro firma sul collaudo dell'opera e noi provvediamo alla liquidazione. Quindi, insomma, sembrerebbe una maniera molto ragionevole. Io, a dire la verità, sentendo i tuoi punti di vista, il presidente della provincia mi sembra ragionevole. Portaluppi, che dice? Non basta? Guardi, io dico, è vero, in parte, nel senso che effettivamente la provincia si trova un po' tra incudine e martello in questo caso, no? C'è anche una missione che ha fatto, che comunque il 2009 è stato saldato, adesso sono state affrontate le necessità, nel frattempo però le aziende hanno dovuto in qualche modo affrontare questo periodo di mancato introito. Io ringrazio questo segno di apertura da parte del Presidente, sicuramente verrà accolto dalle aziende come segnale di forte distensione. A me dispiace dover essere arrivato a questo punto per sollevare un problema che si ripete comunque di anno in anno. Io spero appunto che questa amministrazione, che è nuova, prenda seriamente in ambito regionale il problema e cominci a pensare magari l'anno prossimo come fare, magari non so, nel bilancio comprendere magari lo stanziamento delle mensilità che sappiamo più o meno essere sistematicamente ritardate all'inizio dell'anno successivo, magari appunto nel 2010, supponiamo, nel bilancio che è stato approvato nel 2010 potevano essere comprese le mensilità dell'anno 2011 per garantire il servizio, anche perché il monte chilometri che le aziende del trasporto pubblico hanno in Veneto è più o meno un dato fisso. e che sanno che è un servizio che viene espletato regolarmente, che poi deve essere pagato, non è una voce particolarmente oscillante, magari con dati che ogni anno devono essere aggiornati. È un sistema che è fisso, diciamo, sotto questo punto di vista, e mi auguro che magari di concerto tra le forze politiche riescano a trovare il sistema di creare un sistema di continuità di erogazione dei fondi, senza dover appunto obbligarci a trovare dei sistemi alternativi con banche o altri istituti di credito per accedere per garantirci la continuità del servizio. Ora, io devo dire che la maggior parte dei messaggi che stanno arrivando comprovano inequivocabilmente che di grandi passi in avanti, almeno non lo prendo per un sondaggio statistico, ma se devo desumere che siano indicazione di una tendenza, la maggior parte degli sms che sono arrivati da quando abbiamo posto la domanda iniziale della nostra trasmissione attestano che non vi sono state significative modifiche, miglioramenti delle condizioni di pagamento della pubblica amministrazione da che venne la garanzia che si sarebbe fatto il possibile a metà dell'anno scorso, dopo la polemica sull'ammontare dei debiti, perché c'è chi dice di essere rimasto negli stessi termini di un anno fa, cioè lamenta di dover aspettare 8 mesi per i pagamenti, c'è chi dice che le cose sono ulteriormente peggiorate, c'è anche chi fa osservare poi che d'accordo a lamentarsi, ma in realtà nella sua area, dice, nella mia associazione fanno tutti la fila per riuscire a essere poi fornitori del pubblico, basterebbe non lavorare di più per le pubbliche amministrazioni invece che lamentarsi, però naturalmente dipende anche da che cosa uno produce. Iniziamo a sentire alcune testimonianze dirette, per esempio Vito da Brescia. Pronto Vito? Mi sente Vito? Non mi sente, Vito da Brescia è saltato, sentiamo invece Giovanni da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno. Aspetta, io volevo solidarizzare con gli imprenditori, sono un vecchio direttore di un importante ministero, ormai in pensione, devo dire che il problema nasce dalla struttura del bilancio dello Stato, dove c'è un imbroglio che si perpetua ormai da anni, e l'imbroglio è il seguente: ogni anno vengono stanziati nuovi fondi per fare le nuove cose, ma come competenza, come si dice in gergo, e non vengono messi da parte i soldi di cassa, per cui noi abbiamo effettivamente questa situazione, che abbiamo promesso agli imprenditori di pagarli, però non abbiamo messo da parte le risorse, e questo per la voglia anche dei politici di fare sempre promesse nuove e di non mantenere gli impegni. Quindi o si cambia il bilancio dello Stato, da cui poi derivano tutte le altre cose, perché i soldi alle regioni, alle province e comuni poi vengono sempre dal Ministero del Tesoro, lì è il focus di tutto il problema. Grazie della sua osservazione tecnica, questo ci porterebbe molto lontano, perché ovviamente il bilancio è a legislazione invariata, la finanziaria sono le disposizioni per il cambiamento con l'obbligo di copertura articolo 81, quindi non prendete proprio alla lettera tecnicamente quello che vi ha detto l'ex direttore generale. C'è però la questione che ha posto lui, della riforma delle procedure contabili, se ne parla in Italia da anni innumerevoli. Sentiamo anche l'esperienza di Marco da Bergamo, prego Marco. Buongiorno, sono Marco, sono un avvocato, assisto numerose aziende che lavorano con enti pubblici, e purtroppo devo dire che nella mia esperienza, seppur breve, devo constatare che gli enti pubblici si disinteressano completamente delle esigenze delle aziende, pagano quando vogliono loro, minacciano, perché a me che minacciano tra virgolette, ricattano in un certo senso le imprese. Il caso più eclatante è di un comune della provincia di Lecco, che nel corso di un incontro in cui dovevano pagarci ci dice a me, cliente, tutto, devo rispettare gli impegni che ho preso in campagna elettorale, piuttosto che pagare voi io vado in un contenzioso che dura 10 anni e pagheremo eventualmente tra 10 anni. E così, proprio seccamente. È un'azienda piccolissima, abbastanza solida, quindi può ancora sopportare questa cosa. Però se capitasse un altro ente pubblico che fa un discorso del genere o non paga in breve termine, potrebbe saltare tutto. Beh, grazie Marco. Io ancora prego chi ci sta ascoltando, se ha testimonianze di questo tipo, di venirle, di chiamare e di raccontarcelo, perché temo che questa pressione andrà ripresa, evidentemente, non per fare polemica, non per indurre il governo, le amministrazioni locali a sfondare le barriere del contenimento della spesa, ma la questione è che lo Stato chiede a noi contribuenti, chiede a contribuenti persone fisiche, alle imprese, una tempestività e un rigore assoluto quando si tratta di dire a lui quanto gli dobbiamo, di darglielo e non ammette ritardi, perché altrimenti ti sfascia, come si suol dire, arriva la finanza, arrivano le cartelle, e allora questo rapporto deve essere improntato a simmetria perfetta e pura. Lo Stato non può applicare a se stesso principi e regole esattamente opposte a quelle che applica a coloro dai cui soldi dipende, perché questo significa abbattere il fondamento di un ordinamento che possa legittimamente esercitare la propria sovranità nei confronti dei cittadini, perché significa dire: invece l'ordinamento si fonda sul fatto che ciò che tu devi a me, il rispetto assoluto, io non lo do a te. Allora, raccontateci altre esperienze di questo tipo, perché politici appena eletti che dicono non ti pago, come la famosa commedia di De Filippo, devono indurre, non ripeto, a gesti estremi. Io siamo partito oggi dal caso di Portaluppi, che sta facendo lo sciopero della fame, ma anche per ringraziarlo, però, perché avete visto che con civiltà e misura, come con civiltà e misura e serietà gli ha risposto il presidente della provincia di Treviso, riponiamo la questione. C'è bisogno di riporla, perché altrimenti i debiti ulteriormente si accrescono e semplicemente tutto va nel dimenticatoio, perché sollevare questo problema viene confuso con il volere deficit in più. Figuratevi se io voglio questo. 9:34:51, siamo partiti dalla vicenda di Matteo Portaluppi, imprenditore, sciopero della fame, il problema ritardi dei pagamenti pubblica amministrazione, non solo della pubblica amministrazione, intendiamoci, sapete perfettamente che qui la questione dei ritardi dei pagamenti è dei privati, anche di tantissimi grandi gruppi privati che pagano quando vogliono i loro fornitori, e tanto più sono grandi magari tanto più fanno così, esercitando il loro bel abuso di potere dominante, per così dire. Però nella pubblica amministrazione c'è una questione di correttezza che viene prima, perché è il fondamento del rapporto e anche il fondamento della legittimità del rapporto tra contribuente e Stato. Allora, sentiamo un po' di altre testimonianze e poi ci allarghiamo rispetto alla vicenda da cui siamo partiti. Sentiamo cosa ha da dirci Luigi da Milano. Prego Luigi. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire sul fatto che l'amministratore che parlava prima, con il Treviso, diceva che vogliono controllare i documenti per quanto riguarda il DUC e tutta la documentazione dell'impresa. Esatto. Ma un'impresa come può rispettare i suoi, continuare a rispettare ciò che deve dare allo Stato oppure ciò che deve dare agli altri, quando i suoi clienti non riescono a, non lo pagano? È esattamente questa la questione, cioè alla fine l'impresa, per fare i contributi, che non è che vuole sottrarsi e non vuole pagare i contributi ai dipendenti, si trova a dover vivere di anticipazioni. Le anticipazioni costano, perché allora il problema è che fino a che uno può fare il suo finanziamento di sconto eccetera eccetera, va avanti. In periodi straordinari le banche ti chiedono di rientrare, e a quel punto il gatto si morde la coda, perché lo Stato inizia a diffidare di te come se tu non volessi pagare i contributi. Tu per pagare i contributi non sei più neanche nelle condizioni di far fronte agli oneri che ovviamente pagavi anticipandoli, e a quel punto diventi automaticamente un violatore di norme quando non ti sei mai voluto porre nella condizione di venir meno al rispetto di quelle norme. È esattamente questo il punto, e fino a questo momento mi pare di capire che grandi soluzioni rispetto alla polemica di un anno fa, dopo i primi sei mesi della crisi, non mi pare che si siano ancora viste nelle vostre testimonianze. Sentiamo cosa ci dice Enzo da Salerno. Prego Enzo. Buongiorno, salve. Senta, io sono un imprenditore nel settore della sanità, ho 45 anni, lavoro da 27 anni in sanità e sono 16 anni che ho una mia azienda. Le posso assicurare che non è cambiato proprio nulla, anzi è peggiorata la situazione, perché noi come aziende abbiamo prima dovuto cartolarizzare i nostri crediti perdendo delle cifre esagerate, dopo due anni e mezzo dall'inizio dell'apertura del credito. Ma seconda cosa, adesso abbiamo dovuto proprio ingaggiare delle finanziarie, nonché degli avvocati, che si ritirano le fatture appena emesse, in 40 giorni mettono in mora, dopo ovviamente la scadenza, l'ente preposto al pagamento, e dopodiché noi cediamo il credito pro soluto. Quindi noi ci perdiamo sempre. Esatto. Mi son sentito dire poi da qualche amministratore, e non è un problema locale, guardi, quella è una mentalità e una cultura che hanno questi signori della pubblica amministrazione, dimenticano che è il cittadino che li tiene seduti dietro quelle scrivanie, dicono: quando voi non avete la capacità economica non dovete fare le gare d'appalto. Invece io dico al contrario: quando voi emettete quell'atto in falso pubblico che scrivete che il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla avvenuta fornitura, voglio dire, o prestazione, lì è primo falso in atto pubblico che fanno sulle gare d'appalto. La seconda cosa, quando noi dobbiamo essere pagati, vanno a verificare attraverso Equitalia, tutti gli enti, eccetera, eccetera, se abbiamo qualche debito nel frattempo. E poi ce lo anche vanno ad equilibrare, cioè vanno a pagare prima Equitalia e poi il restante a noi eventualmente. Non è il mio caso, ma io ho visto colleghi. Ma se noi abbiamo un'apertura con Equitalia, facciamo sempre, non abbiamo pagato una scadenza, qualcosa per i dipendenti, eccetera. Da chi dipende? Dipende dal fatto che questi signori non ci pagano. Allora è il cane che si morde la coda. Esattamente, Enzo, sì. Quindi anche da Enzo una conferma che per il momento la soluzione non c'è. Ora, io naturalmente, siccome sono un radicale nelle questioni fiscali, sono un radicale non perché sia un estremista, perché io spero che dopo un po', che oramai mi ascoltate la mattina, abbiate capito che rifuggo da ogni tipo di estremismo, sono per l'equilibrio e il rispetto. Però il rispetto deve essere reciproco, soprattutto quando è lo Stato a mancare di rispetto a chi viene prima di lui. Perché ci sono diritti che appartengono alla sfera del diritto naturale che vengono prima di ciò che è statuito da un ordinamento positivo. Questi diritti naturali, sono quelli individuali, sono alla vita, alla libertà e al patrimonio. E allora, la proprietà, per così dire, poiché è un diritto naturale inviolabile, come quello alla vita e alla libertà, configura questa delicata materia, quella dei rapporti tra i pagamenti, tra chi viene prima dello Stato, cioè la persona, e chi viene dopo lo Stato, anche se esercita pretese cogenti sulla persona, cioè lo Stato, individua un terreno molto delicato e scivoloso, perché io sono di quelli che sostengono da sempre che di fronte a intollerabili violazioni della simmetria del rapporto di pagamento tra chi viene prima, cioè la persona, e chi viene dopo, ma ha il bastone in mano, cioè lo Stato, io sono dell'idea che bisogna chiedere compensazioni automatiche sui crediti IVA, sulle tasse che si pagano sull'IRPEF, perché è intollerabile il principio che a me vengano a chiedere a scadenze fisse e con la Guardia di Finanza che io faccia il mio dovere, se in cambio chi mi chiede, mi guarda la finanza, dice: io il mio dovere non posso farlo e anzi non lo farò. Perché questo significa dover immaginare, se siamo a questo, che i cittadini, i contribuenti e le imprese, in forma personale e rispettosa come Mortalupi, ma anche in forma associativa per fare pressione tutti insieme, devono chiedere finché non ottengono, non l'hanno ottenuto, e forse devono anche iniziare ad auto-organizzarsi in forme di compensazione sui propri, il proprio dovuto fiscale contributivo allo Stato, dichiarandolo, io non sto dicendo l'evasione, dichiarandolo, dicendo pubblicamente allo Stato: io faccio così fino a che tu fai così, mi espongo ulteriormente alla tua rottura di scatole. Facendolo in forma associativa, la mia opinione è che così si dà ai propri iscritti l'esempio di che cosa serve un'associazione di imprese. Andiamo a uno di questi casi che anni fa ebbe il coraggio di pubblicamente sollevare esattamente un problema, sempre con il ritardato pagamento, proponendo forme di autocompensazione fondate sulla sacra legittimità dell'individuo e dell'impresa al rispetto da parte dello Stato. Abbiamo collegato con noi Davide Cervellin. Buongiorno Cervellin. Buongiorno. È un padovano, è un imprenditore che già due anni fa sollevò questioni esattamente su ciò di cui stiamo discutendo. La sua impresa, la Tiflo System, produce attrezzature tra l'altro per disabili, lavora quindi anche la sua impresa nella sanità come Enzo da Salerno. Di fronte ai ritardi dei pagamenti eccetera eccetera, disse: signori, qua bisogna trovare forme di compensazione dirette sul fisco. Com'è andata nel frattempo la sua vicenda? Che cosa le ha insegnato? È riuscito a ottenere qualche cosa poi alla fine? Perché lei aveva dei crediti addirittura che risalivano 8, 9, 10 anni prima. Allora, è andata molto male, la questione è come hanno detto già i radioascoltatori prima. In maniera pubblica a un certo punto ho dovuto dichiarare che per sopravvivere con la mia azienda, con i miei 20 dipendenti, dovevo sospendere qualche pagamento allo Stato, anche perché i pagamenti che io facevo allo Stato erano dei pagamenti per un bilancio non reale ma virtuale, nel senso che io emetto fatture, le fatture compongono quello che è il bilancio, quello che poi determina il pagamento delle imposte, ma se lo Stato quelle fatture non me le paga, naturalmente stiamo discutendo di aria fritta, non c'è quella simmetria di cui lei bene ha parlato prima. Allora io a un certo punto ho detto non pago l'IRPEF, lo dichiaro pubblicamente, ma non pago l'IRPEF non perché voglio fare l'evasore, ma perché se tu Stato non mi dai i soldi per cui io devo pagare l'IRPEF, non so come io posso pagarti l'IRPEF. E questo a fronte di un credito che si protraeva in là nel tempo e purtroppo per me è ancora un credito che io vanto con alcune ASL della Regione Lazio dal 1993, quindi 17 anni. Io ho esperito tutti i tentativi possibili. Ma di che ammontare è più o meno come ordine di grandezza? Allora, il credito, quello vecchio, quello del 93, sono 7-8 mila euro. Poi ho una serie di altri crediti del 2000-2004 per altri 23-24 mila euro. E questi io pensavo di averli risolti dopo tanto clamore l'anno scorso con la rinuncia a tutta una serie di oneri che avevo sostenuto di tipo giudiziario, eccetera, per venire a casa del capitale. La cosa buffa è che lo Stato, cioè in questo caso la parte dello Stato nella fattispecie Regione Lazio, mi ha pagato soltanto le ultime forniture, non mi ha pagato quelle vecchie, quindi io avevo un credito con la Regione Lazio di 260 mila euro, mi ha pagato 200 mila euro, cioè tutte le ultime forniture, e non mi ha pagato le forniture vecchie. Mi ha chiesto di riprendere, perché io avevo nel frattempo sospeso le forniture, come bene ha detto lei, cioè, se uno non ti paga mancano i requisiti stessi per lavorare, quindi io alla Regione Lazio avevo fornito gli strumenti per l'autonomia delle persone disabili, anche per gli ammalati di SLA, per comunicare eccetera, e quindi a un certo punto, non pagando, ho sospeso queste forniture. Con il pagamento delle fatture degli ultimi anni e la promessa che se io aderivo a un concordato che prevedeva il pagamento a 6 mesi, i pagamenti successivi sarebbero stati regolari, io ho ripreso le forniture. Purtroppo ho trascorso i 6 mesi, nonostante la firma del contratto, ancora una volta ho scoperto che la Regione Lazio non ha mantenuto fede al suo impegno, tanto è vero che... Aspetti, non la volevo interrompere, però siamo già oltre di 2 minuti sull'informazione sulla circolazione stradale, poi ritorniamo subito da lei. 9.48, 22, torniamo. Allora, avevo interrotto Davide Cervellini per riporgli poi la questione. Quando lei si è proposto per compensazioni fiscali, che cosa è avvenuto? Come ha reagito lo Stato? Ma lo Stato ha reagito in questo modo, che praticamente mi ha detto che ciò non è possibile. Io ho sospeso in questa autodenuncia pubblica il pagamento dell'IRPEF per 10 giorni, mi è arrivata una sanzione di 4.000 euro più 120 euro di interessi, triplicata la sanzione se non veniva pagata appunto entro 30 giorni. Quindi mi è stato risposto che non è possibile alcuna compensazione, che io devo pagare e che fino a quando non verranno modificate le norme non è possibile in nessun modo esercitare alcuna forma di compensazione. Questo naturalmente vuol dire che in certi ambiti, come nell'ambito della sanità, dove comunque i tempi medi sono 8 mesi un anno, vuol dire che praticamente in questo nostro paese non si può lavorare. Ecco, la mia opinione di fronte a questa testimonianza di Cervellin è che c'è molto di che riflettere, soprattutto coloro che esercitano funzioni di responsabilità nell'associazionismo rappresentativo delle imprese. Non sto parlando solo di Confindustria, questa è la radio di Confindustria ovviamente, ma nel mondo degli artigiani, dei commercianti, tutti coloro che hanno imprese iscritte, fornitrici della pubblica amministrazione, che vanno incontro a problemi di questo tipo. Pensano davvero di non averci guadagnato a fare gli scrupolosi, rispettosi della legge, a non aver per esempio pensato di fornire assistenza legale a un certo numero di loro iscritti che pubblicamente dichiaravano di iniziare a fare ciò che Cervellin ha fatto da solo, senza chiedere il sostegno di nessuno? Perché non porsi il problema di esercitare forme di pressione che passano attraverso l'autodichiarazione di forme di resistenza autocompensativa fiscale nei confronti di Stato e amministrazioni locali non in grado di rispettare la lettera e la sostanza di ciò che è la legge a cui dovrebbero attenersi, per dire iniziamo ad autocompensarci, ci esponiamo gandianamente al fatto che verrete a perseguitarci, ma è l'associazione a cui i membri iscritti dichiarano insieme di farlo, perché la forza è costituita dalla pressione pubblica insieme, l'associazione a cui sono iscritti si prende carico e onere di sobbarcarsi all'assistenza legale del contenzioso. Mi rendo conto che è una strategia di autoviolazione dichiarata della legge, però guardate che quando non ci si mette in condizioni pubblicamente di pretendere il rispetto di leggi che lo Stato deve rispettare nei nostri confronti, vuol dire aver già assunto, introiettato, subito di fronte a se stessi la condizione di schiavo, rinunciare alla libertà del cittadino e diventare uno schiavo. Questo secondo me insegna purtroppo la solitudine dei portalupi che protestano incatenati con lo sciopero della fame, siamo partiti da lui, di Cervellin che ci dice che oramai viviamo in un paese in cui nella sanità è ordinario aspettare 8-10 anni, non può e non deve essere ordinario, e allora bisogna iniziare a protestare, e l'unica cosa che lo Stato capisce sono le tasse e i contributi, perché sa che voi avete paura, perché sa che non la volete la finanza, sa che pagherete sempre e comunque, che sarete degli schiavi somari. Questa è la sintesi, e come vedete io non faccio distinzioni politiche tra destra o sinistra, il problema è che lo Stato spende troppo e gli intermediari di questa spesa sono i politici e l'amministrazione pubblica di tutti i colori, e tendono sempre a volere che ciò che li alimenta arrivi nei tempi giusti, non ciò che esce e che devono essere tenuti a dare nei tempi, scritti in norme che non dovrebbero valere solo da una parte se non valgono anche per l'altra. Sentiamo ancora altra telefonata, perdonate, sapete che su questi temi sono un po' radicale, ma come vedete non lo faccio né per portare acqua a tesi politiche né chiedendovi di diventare evasori. Io chiedo forme pubbliche di autodichiarazione sulla base della certezza del fatto che esiste un diritto naturale che viene prima quello dell'ordinamento, che viola gli impegni pattizi con la persona che viene prima di lui. Sentiamo ancora delle telefonate, innanzitutto Vincenzo da Bari, prego Vincenzo. Non c'è Vincenzo? No. Vito da Brescia? Sì, eccolo. Buongiorno, prego, ci complimenti dica per la trasmissione. Cercherò di fare un riassunto, comunque una panoramica, 15 anni di attività a Roma, 20-25 anni di attività a Brescia. In che settore? Costruisco progettazione e realizzazione di uffici, ambienti di lavoro per le amministrazioni statali, ma soprattutto per il privato, perché purtroppo con le amministrazioni statali è un problema serissimo. Io ho subito una minaccia 30 anni fa da un istituto di statistica importante, conosciuto in tutto il mondo, emanazione della Union Camere, non dico comunque qual è, su dei lavori che furono diciamo ingranditi, che uscivano un po' da quello del budget, ci imposero di continuarli, dopodiché non ci pagarono, ci dissero o prendete quello che era stato stabilito inizialmente oppure entreremo in causa e riprenderete forse fra 10 anni. Perciò queste minacce sono all'ordine del giorno e lì imparai tutto immediatamente di chi avevo di fronte. E negli anni, visto che tanti anni ci ha detto di attività, come ha visto evolvere la regolarità dei pagamenti? Ah no, no, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla perché manca l'etica, manca la cultura. Cioè gli ospedali civili di Brescia, fatto un lavoro 2 anni fa, pagamento 1 anno. Ci è stato chiesto una cortesia di spostare un call center, pagamento, dice guardi non ce la faccio perché voi pagate 1 anno, no ve lo paghiamo immediatamente, non si preoccupi, è stata gentilissima, devo dire che loro ce la mettono tutta, poi le persone singole. E alcune, il subito quanto sei è diventato? Sei mesi, sono diventati sei mesi. Quasi un record. Però io quello che vorrei dire, per esempio tutte queste aziende anche parastatali, devo dire A2A, che potrebbe permettersi il pagamento anche a 60 giorni, fa una gara d'appalto per 60.000 euro spendibili in 2 anni, pagamento a 6 mesi. Naturalmente poi diventano 6 mesi dalla fattura fine mese, poi c'è i 15 giorni del bonifico. Questa è mancanza di etica. Allora, e posso dire comunque che quando si porteranno, chi porterà i soldi a casa, quando li porterà, non porterà nulla. È un gioco di spostamento di denari. Grazie a Vito, grazie a Vito. Esperienza di Vito, certo, non esaltante. Sara da Bologna. Lei invece? Buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia esperienza è questa, io sono un'imprenditrice, ho fatto 3 o 4 anni fa una fornitura alle polizie dello Stato, al reparto volo di Reggio Calabria. Sì. La fornitura aveva come accordo un pagamento a 90 giorni che ovviamente non è arrivato, il pagamento è arrivato all'incirca dopo 2 anni dalla fornitura. La cosa che oltretutto mi ha anche dato fastidio è che a un certo punto mi è stato detto chiaro e tondo che siccome l'amministrazione, i vertici erano cambiati, la polizia stava mandando avanti i pagamenti dei fornitori avvenuti dopo il cambio dei vertici, ecco. Per cui diciamo quelli un pochettino più amici. Grazie anche. Amici sono stata. Grazie vista. Anche a Sara da Bologna. Testimonianze univoche. Ragazzi in ascolto che esercitate la funzione di rappresentanza nelle diverse associazioni d'impresa, è il caso che vi risvegliate perché vi hanno messo a tacere e a dormire dicendovi che c'erano dei soldi per fronteggiare il passato. Non è vero, e questa radio e io personalmente si pone anche il doveroso obiettivo di ricordare che per pagare gli stipendi ai dipendenti, che stanno tutti a cuore, io non sono dipendente, bisogna che lo Stato si impegni a fare lo stesso che chiede da noi contribuenti, con la stessa precisione, altrimenti bisogna fargli male laddove è l'unico punto in cui lui avverte il male, cioè i soldi che ci prende e ci leva dalle tasche. Conclusione della puntata di oggi, grazie in regia a Filippo Aureggi e Alessandro Marcutullo, come sempre oggi un po' più buono in redazione. La linea al giornale radio, appuntamento a domani.